Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. -6-8% a bocce ferme potrebbe essere questa la percentuale di discesa dei prezzi degli immobili in media in tutta Italia alla fine di quest'anno. Nella speranza che la crisi economica non si aggravi, anche se non è detto che questa sia esattamente una cattiva notizia, in qualche città in cui gli aumenti dei prezzi delle case registrati nell'ultimo decennio erano ritenuti forse ingiustificati, anche eccessivi in certi casi. Nomisma ha diffuso venerdì scorso il secondo rapporto 2009, l'osservatorio sul mercato immobiliare, che prevede comunque un ulteriore rallentamento delle compravendite, proseguimento della fase di diminuzione dei prezzi con ovviamente l'inevitabile situazione a macchia di leopardo sul paese e aumento degli sconti mediamente praticati sui prezzi richiesti. In tutto questo però c'è anche un altro fenomeno che sta facendo capolino e che qualche operatore si è messo ad osservare con una certa attenzione: le occasioni immobiliari nel panorama internazionale, dato che in alcune aree i prezzi hanno avuto una discesa a dir poco dirompente da rendere molto appetibile l'investimento in queste zone. Sono in particolare gli Stati Uniti ad attirare l'interesse di un numero sempre più elevato di italiani, ma anche la Francia sta destando interesse, così come qualche isola della Grecia. Allora oggi ci faremo anche questo viaggio in giro per il mondo per capire quanto la casa all'estero sta andando di moda. Allora oggi di nuovo ad esplorare il mattone a Salva Danaio con Luca Dondi, analista appunto di Nomisma Real Estate, e Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. Il numero al quale potete intervenire è il solito 800 24 00 24. Gli italiani sono molto appassionati di mattone, anche se poi darò letture, magari proprio commenterò anche questo con i nostri ospiti, di come hanno titolato i giornali nei giorni scorsi all'indomani della diffusione del rapporto Nomisma, perché in realtà il quadro tracciato da questo rapporto è stato visto in maniera molto diversa dalle diverse testate considerate. Per il Sole 24 Ore rispunta l'investimento: 3 milioni e mezzo di famiglie hanno intenzione di cambiare casa nel prossimo biennio, mentre secondo la stampa l'Italia non compra più casa, i prezzi sono in calo, crollano le compravendite. Quindi cercheremo di capire se questo dato complessivo di 600.000 compravendite previste per quest'anno sia da considerare un vero crollo rispetto a quel record raggiunto di 845.000 nel 2006. Insomma, ci sono tanti aspetti interessanti da analizzare e soprattutto cercheremo anche di monitorare un po' cosa succede nelle diverse città italiane. Vi ho ricordato il numero verde per intervenire, ma ci potete anche scrivere al 349-238-6666. La borsa oggi intanto, a proposito di investimenti, sembra essere positiva. Sicuramente chi ha investito sul mercato azionario una settimana fa ha portato a casa un bel guadagno, perché da sette sedute di borsa consecutive il mercato azionario non si ferma, ha ripreso a crescere, perché le trimestrali in arrivo dagli Stati Uniti appaiono agli operatori più confortanti del previsto, perché l'economia sta andando male, ma evidentemente si preferisce guardare in questo frangente alle notizie buone, anche se il petrolio è tornato a $64 al barile, il dollaro continua ad indebolirsi sull'euro a 1,42,23. L'ultima trimestrale considerata dal mercato in queste ore è quella di Texas Instruments dagli Stati Uniti, colosso mondiale dei chip. I dati sono buoni, anche se il gruppo ha espresso una grande cautela sulla fine dell'anno, ma il mercato appunto guarda soprattutto ai dati comunicati. E infatti fra i migliori titoli di Piazza Affari, non è esattamente adesso fra i migliori, comunque va bene, più un 74% figura STM. I migliori titoli di questa giornata a Piazza Affari: il FTSE MIB, la miglior piazza d'Europa, più 1,66%. I migliori titoli, dicevo, sono Autogrill, va bene un po' tutto il settore del consumo oggi in Europa, del cosiddetto retail, quindi Autogrill guadagna il 4%, Finmeccanica più 3,45%, Alleanze Generali vanno di pari passo, più 3,44%, più 3,34%, le rispettive prestazioni. Mondadori più 2,82%, Intesa San Paolo più 2,52%, Atlantia più 2,34%, Fondiaria più 2,32%, più 2 anche per Saipem, per Telecom Italia e per Buzzi Unicem. Il segno meno, fino a poco fa non c'era nessun titolo, adesso ce ne sono un paio, ma perdono molto poco: Mediolanum meno 0,07%, Mediaset meno 0,06%. Gli altri temi della giornata: è stata riammessa le contrattazioni risanamento, il gruppo dell'immobiliarista Zunino, come sapete c'è un'indagine per bancarotta, il gruppo fa fatica ad entrare in contrattazione perché in avvio perdeva il 45%, quindi insomma la situazione è quella comunque che è piuttosto delicata. Oggi pomeriggio il numero uno della Banca Centrale Americana Bernanke presenterà il suo rapporto sulla politica monetaria al congresso statunitense, tra l'altro intervento che dura due giorni e pertanto vedremo oggi quali indicazioni arriveranno. Direi che possiamo lasciare la borsa e andare subito al tema di questa mattina. Continuiamo ad esplorare gli investimenti delle famiglie italiane e oggi torniamo ad analizzare l'investimento nel mattone. Non si arresta la fase negativa del settore immobiliare nel primo semestre dell'anno. Ancora giù prezzi e numero di compravendite a fronte di un allungamento dei tempi di vendita che ormai si aggira intorno ai 6 mesi. Lo afferma uno studio di Nomisma secondo cui i prezzi delle abitazioni nei primi 6 mesi del 2009 sono calati del 2,5%, flessione che su base annua si traduce in un meno 3,5%, il dato peggiore dal 1997. La frenata dei prezzi ha colpito in modo particolare le città del nord, con Bologna che su base annua ha subito un ribasso del 7,3%, Milano meno 6,1%, Venezia meno 5,5% e Firenze meno 5,3%. Al sud invece ci sono città come Cagliari e Bari dove le quotazioni sono addirittura già in ripresa, rispettivamente di un 2,8 e un 1,1%. Tuttavia, dopo un 2009 ancora improntato alla flessione, nel 2010 si dovrebbe registrare qualche segnale di schiarita, considerato che la percentuale di famiglie che si dichiara interessata ad acquistare un'abitazione nel prossimo biennio si attesta sul 14,6%, circa 3,5 milioni di famiglie che diventano oltre 7 se si aggiungono anche quelle poco interessate. Una cifra notevole, soprattutto considerando che si prevede che le transazioni a fine 2009 si attesteranno a quota 600.000, valori ben lontani dalle 850.000 compravendite che si registravano negli anni d'oro del mattone. Ma se la domanda interna stenta ancora a riprendersi, lo shopping di abitazioni da parte di italiani all'estero sembra tenere. Anzi, secondo l'ufficio studi di Scenari Immobiliari, la tendenza all'acquisto oltre frontiera sta aumentando. Soltanto nel primo semestre 2009, gli italiani che hanno preso casa all'estero sono il 15% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel mirino gli Stati Uniti, Miami in testa, complice la flessione dei prezzi del mattone e la debolezza del dollaro, ma anche Londra, America Latina e Caraibi, località che sembrano aver soppiantato mete d'acquisto tradizionali come la Costa Azzurra. 800 24 00 24, numero verde per gli interventi di voi ascoltatori, e vedo già che c'è qualcuno che ha chiesto di intervenire e la parola a investimento nel settore immobiliare al di fuori dell'Italia ha già sollecitato e stuzzicato l'attenzione di alcuni ascoltatori. Adesso darò la parola immediatamente, deve solo avere un minutino di pazienza, Mauro da Bergamo, che guarda appunto con grande interesse ad oltreoceano. Prima però vorrei fare subito due prime battute con i nostri ospiti. Luca Don di Nomisma Real Estate, buongiorno e bentornato a Salvadanaio. Dondi? Abbiamo qualche problema con, non lo so, adesso lo recuperiamo, insomma, con la telefonata. Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Bentornato anche a lei, non la sentivamo da un po'. Allora, ovviamente ci ha incuriosito il vostro dato relativamente al monitoraggio dell'investimento delle famiglie italiane verso case all'estero, però prima volevo chiedere un commento anche a lei rispetto un po' a quello che sta accadendo in Italia, non tanto nel giudicare il rapporto di Nomisma che è, come dire, costruito scientificamente parlando dal punto di vista della costruzione appunto ineccepibile, però è stato riportato in maniera molto curiosa dai giornali, perché c'è qualcuno che parla di una ripresa che è davvero un'incognita per quello che riguarda il settore del mattone. Leggo Milano Finanza: aspettando la vera retromarcia. Il Sole 24 Ore: rispunta l'investimento, ci sono almeno 3 milioni e mezzo di famiglie che hanno intenzione nel giro di 2 anni di cambiare casa, e per La Stampa invece l'Italia è un paese che non compra più casa. Ma è davvero così allarmante la situazione? Tutto sommato possiamo ancora definire l'andamento che Nomisma ci racconta come un andamento del tutto fisiologico rispetto alla crisi che stiamo vivendo e rispetto anche alla crescita che c'è stata negli ultimi 10 anni. Sì, Sì, è una domanda molto complessa. Cercherò di rispondere brevemente. Perché mi sono proprio incuriosita sui titoli dei giornali. Guarda, mi ci sono andati gli occhi stamattina e ho osservato come fosse stato riportato in maniera molto diversa. Cioè, un calo, stiamo sostanzialmente, si concorda su un calo dei primi sei mesi delle compravendite intorno al 20% rispetto all'anno scorso e i prezzi che grosso modo sono scesi del 5%. Tutto questo in Italia, nei principali paesi occidentali, la discesa dei prezzi delle compravendite è stata decisamente più forte. Stati Uniti, l'avete appena accennato, i prezzi si sono ridotti del 40%, le compravendite scese di oltre il 60%, Francia, Inghilterra e così via, numeri peggiori dei nostri. Quindi le due chiavi di lettura che i titoli dei giornali sintetizzano rappresentano un po' disorientamento di chi guarda questo mercato. Dice sì, abbiamo avuto delle discese e potremmo avere una discesa ancora più forte, e questo spiega chi dice, chi ritiene, insomma, tra gli analisti ma anche tra gli investitori, che probabilmente è il caso di aspettare perché il mercato scenderà di più e quindi siamo in una fase di una è sceso poco, poi si avrà il grande crollo. Altri, e io mi metto tra questi onestamente, che dicono il mercato è sceso, era una flessione attesa prima ancora dei mutui subprime perché la salita era stata molto forte negli anni scorsi, oggi abbiamo un mercato che si è ridotto, probabilmente anche la seconda parte dell'anno andrà maluccio, ma i cosiddetti fondamentali del mercato, cioè la pressione della domanda, la voglia di investire e la crescita della domanda che abbiamo in Italia continua, fa in modo che il mercato continui ancora a essere, diciamo, essere sano. La flessione dei prezzi, che sembra significativa nelle varie realtà, se viene suddivisa per zone e soprattutto per tipologie di case, si vede che invece è estremamente frammentata. E infatti, quindi bisogna sempre tenere in considerazione ovviamente la città di cui si sta parlando, il tipo di immobile soprattutto che è oggetto generalmente della compravendita. È chiaro che era più facile l'analisi quando tutto andava bene. Infatti. Per cui le case brutte salivano del 3%, quelle belle del 10%, e qui però tutto veniva coperto. Oggi la situazione è inversa, cioè le case brutte scendono del 10%, quelle belle o stanno ferme o addirittura salgono. Questo è quello infatti, che accade nel mercato. Il mercato è diventato davvero selettivo in questa fase. Luca Dondi, riusciamo ad averla con noi? L'abbiamo recuperata? Dondi, ci sente? Sì, adesso sì. Eccoci buongiorno. Qua, infatti abbiamo avuto un piccolo problema con le nostre linee telefoniche. Allora, e quindi sono dovuta partire con Mario Breglia per fare così un primo commento rispetto al vostro osservatorio, il secondo rapporto 2009 sul mercato immobiliare del nostro paese, quello che prende in esame le 13 città intermedie italiane, poi le ricordiamo di nuovo quali sono, ogni volta che invitiamo Dondi gli faccio fare sempre la lista della spesa, ricordare le città interessate a questo rapporto, però volevo chiedere anche a lei così proprio un giudizio rispetto a quello che è emerso dal vostro rapporto, per lei che ovviamente lo compila e lo conosce molto bene. Una volta tracciato il quadro definitivo, avete avuto l'impressione di trovarvi di fronte ad una situazione di crisi per quello che riguarda il mattone italiano, una discesa invece fisiologica, come dice qualche giornale, un paese che non compra più casa? Ma oggettivamente la situazione è complessa, non si può negare la situazione di crisi perché è evidente dai numeri, non tanto dai prezzi che ancora resistono, ma dai livelli di attività che sono drasticamente scesi. Effettivamente c'è un desiderio, una volontà di acquisto che però io in questo momento mi sentirei di mettere in secondo piano. Nelle condizioni attuali di mercato è una domanda potenziale, una domanda teorica che è difficile slatentizzare ai prezzi di mercato attuali e con il sostegno che le banche concedono al settore in questo momento. Per cui effettivamente c'è una grossa fetta di domanda che potrebbe affacciarsi su questo mercato, ma io credo che non lo farà in tempi brevi e soprattutto non lo farà a queste condizioni di prezzo. Credo che una flessione dei prezzi sia necessaria per ripristinare livelli di attività superiori di quelli. Infatti, perché l'impressione, mi scusi se la interrompo Dondi, è proprio quella che in realtà abbiamo già avuto modo di commentare in altre puntate su questo argomento. L'impressione è proprio quella che la domanda tutto sommato ci possa essere perché gli italiani, a prescindere dalla crisi, hanno ancora un tasso di risparmio nel loro portafoglio evidente, notevole. Il problema è che è l'offerta che si mette sul mercato con grande difficoltà, perché naturalmente chi la casa la vuole vendere non accetta di farlo a prezzi al ribasso. Poi magari vi racconto anche quello che sta capitando ad un mio amico che sta tentando di comprare casa. Ovviamente i venditori vogliono firmare seduta stante un compromesso ad un determinato prezzo, e però si sono presi anche, come dire, la libertà di dire: noi non andremo a rogito prima di 8 mesi perché vogliamo essere sicuri di trovare la casa che fa per noi. Per cui loro, come dire, vogliono vincolare anche tutto il procedimento, poi ci lamentiamo, come dire, della lungaggine della compravendita. E in genere non è solamente dovuta anche ad un problema di credito con la banca, ci sono tanti altri fattori, giustamente, come diceva Dondi, da considerare. Abbiamo però, come dicevo in apertura, stuzzicato l'attenzione degli ascoltatori che invece non vogliono rimanere in Italia, evidentemente, ma guardano ad altre località per effettuare il proprio investimento nel mattone. Allora io sentirei subito Mauro da Bergamo. Mauro. Sì, pronto. Eccoci, buongiorno. La sua domanda io l'ho voluta subito, perché guardi, qua siamo incuriosite su questa località. Sì. Io insieme a lei, ad altre mie due colleghe che amiamo molto questa zona che lei... Dove lei vuole investire? Ma guardi, più che l'amore per la zona è l'amore per il prezzo. Eccolo là. Perché in realtà si può comprare a un 35-40% in meno del prezzo di mercato dell'anno di 2 anni fa. Non abbiamo detto qual è la città, Mauro. Dove vuole andare? Miami. In Florida. E allora io dicevo, però, per comprare una casa all'estero in generale, ma in particolare fuori dalla UE. Sì. Non ci sono problemi per un italiano, cioè voglio dire, non è che poi fiscalmente o dal punto di vista così legale, a parte i problemi che ci potrebbero essere in America, per quanto riguarda l'italiano che va a investire, si possono creare. Ecco, questo che volevo sapere dai suoi esperti. Mauro, è un investimento che credo il fisco italiano voglia conoscere, ma non penso che ci sia alcun tipo di problema, perché Flavio Briatore insieme a Simone Ventura, insomma, in queste aree si comprano sempre un sacco di case, ma non vedo, mi pare che nessuno li contesti, ma a parte questi aspetti folcloristici e divertenti. Mario Bregli, allora intanto cominciamo con la località scelta da Mauro, che è quella che viene messa più in evidenza dalla vostra indagine nel settore delle case acquistate dagli italiani all'estero. Miami, come molte località degli Stati Uniti d'America, hanno visto un crollo dei prezzi, come dire, che definire verticale è un eufemismo. Sì, è una discesa molto forte. Tenere presente che Miami in realtà è un'area enorme in cui si è costruito e si continua a costruire molto, e che aveva anche negli anni scorsi delle quotazioni diciamo accessibili, 2.000-2.500 dollari al metro quadrato. Veramente. Oggi le quotazioni non sono scese in assoluto, perché siamo ancora oggi intorno ai 2.000 dollari al metro quadrato. Esatto, però è il dollaro che è sceso. È sceso il dollaro, stamattina 1,40, per cui in realtà si compra con poco più di 1.000 euro al metro quadrato una casa in genere o in primo o in seconda schiera rispetto al mare. Poi a volte lontana anche 30 chilometri dall'area centrale cosiddetta di Miami, però è sempre una casa sempre al mare. Miami è certo. Esatto, raggiungibile con voli low cost o normali praticamente quasi tutti i giorni dall'Italia. Diciamo che rispetto a una località media di mare italiano come può essere la Riviera Romagnola, i prezzi in termini reali sono del 30%, quindi costa un terzo rispetto alla Riviera Romagnola. Ecco, ma quante famiglie italiane secondo lei stanno esplorando quest'area per l'acquisto magari di una seconda abitazione per passare le vacanze o anche per mettere a reddito? Non trascurerei, questo lo vorrei dire a Mauro da Bergamo, il fatto che questa è una località che viene visitata spesso e volentieri anche da qualche uragano, da qualche tornado, per cui bisognerebbe anche assicurare queste abitazioni, e il premio, immagino, proprio per questi rischi non sia un aspetto trascurabile. Però certo, rispetto al valore complessivo dell'investimento, magari per qualcuno è un aspetto secondario, Breglia. Sì, ma diciamo il numero di famiglie in Italia, le famiglie italiane che quest'anno dovrebbero comprare all'estero sono intorno alle 35.000, quei po' più della metà comprato nel primo semestre. Almeno 10.000 sono quelle che hanno comprato o stanno per comprare negli Stati Uniti. Stati Uniti. Circa 3-4 mila vanno nell'area di Miami, quindi non sono numeri piccoli. Mm-hmm. Due considerazioni: sicuramente va fatta un'assicurazione contro gli uragani, e sono molto care queste assicurazioni, perché negli Stati Uniti è basso il prezzo di acquisto, ma le tasse locali, noi non abbiamo più l'ICI, ma lì le tasse locali sono molto forti e tutte le spese. L'alloggio va tenuto in buona manutenzione, certo, altrimenti si pagano, e lì si pagano davvero le multe locali. E poi anche tenere presente questo, che la casa che perché ti compra... Perché cosa, Breglia, per una questione di decoro urbano? Sì, di decoro, di attenzione. Certo, una località così alta vocazione turistica, è ovvio tutti, che... Tutti gli Stati Uniti è così, quindi l'abitazione deve essere tenuta molto bene, oppure... diciamo si incorre in multe salate. Altra considerazione che riguarda non solo Miami, ma in generale tutte le zone degli Stati Uniti, è che il concetto di abitazione è diverso dalla nostra, cioè noi siamo abituati a vedere e a comprare un'abitazione che resta nei secoli, passa di generazione in generazione. Nella maggior parte degli Stati Uniti, cioè escluso le città storiche, le abitazioni hanno... molte sono fatte di legno, hanno una durata media che è intorno ai 20-25 anni. Quindi insomma, a fronte di un investimento iniziale che può essere molto contenuto, poi in realtà l'attività di manutenzione dell'immobile può essere, esatto, nel tempo un onere da non trascurare. Salva Danaio, siamo ritornati a parlare del nostro investimento nel mattone alla luce dei risultati del secondo rapporto 2009 di Nomisma, l'osservatorio sul mercato immobiliare, una congiuntura molto difficile, come abbiamo già avuto modo di spiegare. Secondo il rapporto Nomisma, la fase negativa nel settore sta proseguendo, nel 2009 si sta anche amplificando, però Luca Dondi, che di questo rapporto è il curatore, leggendo i dettagli del vostro esame, leggo anche che sulla scia delle previsioni che avete individuato, gli operatori immobiliari reputano che il punto più basso del mercato abitativo sotto il profilo del numero di compravendite, alla fine di quest'anno ne sono previste 600.000, sia stato ormai quasi raggiunto, per cui comunque il picco minimo ce lo dovremo lasciare alle spalle quest'anno. Sì, dal punto di vista dei livelli di attività probabilmente non si scenderà sotto le 550-600.000 compravendite. Il problema è riuscire a ipotizzare uno scenario che veda stabilmente i livelli di attività sopra le 700.000 compravendite, così come era accaduto negli ultimi anni espansivi. Perché questa soglia è considerata importante? È una soglia che consente comunque di rispettare quelli che erano stati gli anni di crescita del settore. Non è una soglia psicologica che è importante di per sé da raggiungere, ma è una soglia a cui il mercato bene o male si è abituato negli anni espansivi, tenuto conto che la componente di investimento è molto cresciuta dal 2001 in avanti, non solo per quanto riguarda gli investimenti all'estero, ma anche per quanto riguarda gli investimenti in Italia, per cui il mercato immobiliare è adesso in condizioni di poter restare stabilmente su livelli di attività superiori alle 700.000 compravendite. Il problema è che in questa fase è difficile che questo possa accadere con valori di mercato che sono ancora piuttosto elevati rispetto, sì, alla disponibilità delle famiglie, tenuto conto che il credito bancario si è ridotto. Sì, si è ridotto tantissimo, a di pari passo anche con i tassi, per cui teoricamente ci sarebbero le migliori condizioni possibili per poter fare un investimento in questo momento. Il credito è a bassissimo costo e i prezzi stanno scendendo, il problema è la banca quanto ci dà per fare questo investimento. Sì, i tassi sono scesi molto, ma i tassi effettivi poi non sono scesi altrettanto rispetto, sì, ai tassi ufficiali. Ed è molto cambiata la politica delle banche rispetto al loan to value, cioè quanto la banca concede rispetto al valore degli immobili. Negli anni espansivi si raggiungeva anche il 100% e in operazioni abbondante, non residenziali, direi, sì, si andava anche al 120%. Adesso si fa fatica ad arrivare al 60% e comunque sono necessarie garanzie accessorie che prima non venivano richieste. Quindi è evidente che l'approccio sia molto più rigido e rigoroso e che questo associato a prezzi che scendono, ma scendono troppo poco, significa un riflesso negativo sui livelli di attività. Allora, vorrei ancora ricordare quali sono le aree che Nomisma analizza ed esamina per poi stilare il rapporto. Ne sono due i rapporti annuali, appunto, che Nomisma elabora per monitorare l'andamento dell'investimento nel mattone del nostro paese. Sono Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Noto in questa lista della spesa, come l'ho definita prima, Dondi, che ci sono due città, e sono Bari e Cagliari, per le quali però è previsto un andamento positivo su base annuale alla fine del 2009 in termini di andamento dei prezzi. Sono le uniche due città che concluderanno l'anno con il segno più davanti? Probabilmente nella seconda parte dell'anno arriverà un calo anche per queste realtà. Diciamo che non sono realtà che sono già uscite dalla fase negativa, ma probabilmente sono realtà che stanno adesso entrando nella fase peggiore. Teniamo presente che sono città entrambe che hanno uno sviluppo costiero non indifferente, che questo incide sui valori del mercato immobiliare, ed è proprio il segmento turistico, soprattutto delle localizzazioni più interessanti, che in questo momento fa registrare segnali di tenuta rispetto all'andamento delle principali città e anche della media provincia. Dove abbiamo avuto invece il calo dei prezzi più forte? Ma le città che hanno fatto registrare i dati più negativi sono Bologna, che ormai è qualche anno che segna le performance peggiori, e oltre a Bologna i dati peggiori sono quelli di Firenze e di Milano, mentre continuano ad arrivare segnali di tenuta da Roma, anche se Roma è una città costosissima da monitorare, per cui il dato medio a Roma credo che sia poco significativo nell'analisi delle dinamiche. Bisogna andare a fare un'analisi più puntuale, perché la differenza che c'è soprattutto nelle periferie è enorme, quindi il dato medio lo lascerei proprio per l'analisi statistica. Bisogna andare a calarsi nel territorio. Infatti, allora, tra l'altro ci sono tanti punti interessanti di questo rapporto, perché c'è per esempio, quasi completamente indenne dalla crisi, il segmento dei box auto. C'è tutto il settore, tutto il ramo, come dire, della bioedilizia, chiamiamolo così, le case che hanno un'alta efficienza energetica, lo stesso possono continuare invece a mostrare un andamento positivo in termini di prezzi. Le famiglie sono disposte a spendere di più se determinate abitazioni hanno determinate caratteristiche. Il tema della qualità è ovviamente centrale nella compravendita. E poi, siccome all'inizio della trasmissione abbiamo sollevato anche il tema dell'investimento all'estero, ci sono altri ascoltatori che vogliono raccontare in particolar modo a Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, che tipo di investimento hanno fatto. Lo abbiamo raccolto la testimonianza di Jerry da Milano, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto, dove è andato ad investire? Alle Seychelles. Ah, è una signora, mi scusi, io pensavo fosse Jerry, qualcosa del genere, un nome maschile. Alle Seychelles. No, sì, alle Seychelles. Ci dica un po', come le è venuto in mente? Investono anche le donne. No, ma ci mancherebbe, anzi, molto forse più attente o curato, ma no, non facciamo queste generalizzazioni come al solito. Ci dica un po', allora, che cosa l'ha spinta verso quest'area? I prezzi, ma, oppure si è innamorata? Allora, è un'area che conosco perché ho passato molte vacanze. I prezzi sono decisamente bassi, anche se ultimamente un po' sono comunque si sono aumentati, perché le Seychelles ormai le hanno scoperte, tra virgolette. Ci dica che taglio ha la sua casa, quanto ha speso, se ce lo può dire, Jerry, così diamo qualche aiuto anche ai nostri ascoltatori. Ma diciamo che sì, la casa, vabbè, abbastanza insomma semplice, però è comunque grande, ha, non so, 4 stanze da letto, 4 bagni, sì, un tipo bungalow, no? A 300 metri dal mare, quindi una vista strepitosa, si sente l'acqua, perché comunque circa 80 metri di altezza, e ha tantissimo terreno, circa 3.000 metri. Ma lei, Jerry, l'ha presa così, spinta dal fatto che comunque è il posto dove lei ama trascorrere ogni anno le sue vacanze, o comunque la vuole mettere a reddito, un investimento, la vuole affittare? Sì, tutte e due, sì. Perché è molto grande, magari anche qualche stanza, tipo un bed and breakfast, non lo so. No, beh, si può affittare anche saltuariamente, insomma. Comunque i prezzi sono decisamente, cioè diciamo che con quello che io ho pagato questa proprietà qui ci avrei comprato, non so, un monolocale, diciamo un bilocale medio, esatto, 60 metri quadri qui esatto. A Milano. E poi i prezzi, appunto, come le dicevo prima, aumentano cioè ogni sei mesi aumentano ultimamente, quindi penso che sia anche un investimento sotto questo aspetto. Ma poi se lei è contenta, Jerry, sicuramente già da questo punto di vista è un ottimo investimento, perché tra l'altro non ci dimentichiamo mai che deve essere anche un investimento che fa il caso nostro, che soddisfa le nostre esigenze. Per cui Mario Breglia, l'aspetto emotivo forse anche nelle compravendite lo teniamo un po' poco in considerazione, ma magari qualche volta siamo disposti a pagare un po' di più per la casa che è quella dei nostri sogni, e a volte proprio questo è l'aspetto che ci induce a non trattare tanto sul prezzo, no? Ma forse questo era un po' più un aspetto degli anni passati, magari. No, questo è ancora una motivazione prevalente, quella dell'acquisto, non solo la casa dei Seychelles, che ovviamente condiziona ed è molto motivata dalla scelta, dal luogo e dall'amore per quella terra, però anche comprando una casa a Milano o a Bari, l'aspetto emotivo, cioè il farsi piacere la casa, vale quasi a volte un po' di più rispetto al prezzo. Anzi, se una casa piace si è disposti a pagare un po' di più, a pensare come ingrandirla, come migliorarla, poi sul prezzo si vedrà. È chiaro che quando ci si mette nell'area nella ricerca di un'abitazione c'è un budget di riferimento, però spesso vediamo che chi parte con un budget poi alla fine compra un'abitazione che magari è anche decisamente maggiore rispetto al budget. È abbastanza difficile che ci si possa stare dentro completamente. Sì, anche perché poi non dimentichiamo che non solo c'è l'aspetto emotivo, che è quello che spinge verso un acquisto, ma alle spalle la maggior parte delle persone, almeno per quanto riguarda gli italiani, c'è anche il nucleo familiare allargato, per cui se non si ha direttamente la somma disponibile ci arrivano gli zii, c'è una copertura da parte di qualcun altro con la garanzia fideiussoria e così via. Proprio perché da noi l'acquisto di una casa è per sempre, come diceva la pubblicità. Come dicevamo, sì, infatti. Poi quindi abbiamo la seconda, la casa all'estero non è quasi per nessuno la seconda casa, è spesso la terza o la quarta casa, perché ci sono 100.000 euro da investire. Dobbiamo anche una risposta a quel signore precedente che chiedeva come regolo col fisco italiano. Sì. In questi giorni i giornali sono pieni del modello RV della dichiarazione dei redditi, in cui proprio devono essere dichiarate le proprietà che si hanno all'estero, per cui la trafila dell'acquisto va fatto attraverso una banca italiana che manderà la registrazione all'ufficio italiano cambi, l'eventuale reddito che si ha all'estero, salvo particolari accordi tra l'Italia e quel paese, va dichiarato sulla dichiarazione dei redditi in Italia. Però insomma non è un territorio inesplorato, ma quindi no, anche le persone che sono interessate, che magari nulla ovviamente di particolare, infatti sappiamo sicuramente possiamo trovare l'esperto, il consulente che ci sappia indirizzare al meglio anche nel terreno complicato del rapporto con il fisco. Luca Dondi, intanto ricordo il numero verde 800 24 00 24 per prenotare i vostri interventi. E a proposito, come dire, dell'aspetto motivazionale che ci spinge all'acquisto della casa, Nomisma rileva come per una casa risparmio energetico e in bioedilizia un acquirente disposto a spendere anche il 15% in più rispetto ad un prezzo di mercato magari per una determinata località. Sì, effettivamente così l'offerta è piuttosto contenuta e l'interesse della domanda esiste. È chiaro che in una fase di mercato come questa non è il solo aspetto della qualità energetica a poter indurre all'acquisto, è un elemento che si tende ad apprezzare e che sarà apprezzato in maniera crescente non appena il mercato uscirà da questa fase recessiva. In questo momento è comunque un segnale importante che nel momento in cui ci sono certi livelli di qualità complessivi la domanda è maggiore rispetto alla domanda che ci può essere per una casa invece di minore qualità. E intanto sto continuando a notare molti ascoltatori che ci scrivono e ci telefonano interessati proprio all'investimento all'estero, anche se qualcuno guarda invece a questa tendenza con perplessità e si chiede, ma insomma, in una fase di crisi come questa, dove stanno trovando tutto questo denaro molte persone, ma visto che non facciamo altro che parlare di aumento della cassa integrazione, di persone che finiscono in mobilità e il cui reddito ovviamente si riduce drasticamente, dove c'è questo denaro per fare un investimento addirittura così lontano da casa nostra? E allora io vi riporto sul seminato iniziale, raccontateci invece qual è il vostro approccio al mercato immobiliare in questo momento, state cercando di vendere la vostra casa, quali sono le difficoltà che riscontrate nella trattativa con il possibile acquirente, o se siete invece un possibile acquirente, che rapporto avete con il venditore, perché non riuscite a spuntare magari il prezzo che volete, qual è la difficoltà della trattativa in questo momento. Io cerco casa, ci racconta Pippo nel torinese. Da alcuni mesi le agenzie mi chiamano tutte le settimane abbassando di 20, 30.000 o anche 50.000 botta su case da 200 a 250.000. Una bella percentuale, intanto io aspetto. Luca Dondi, sicuramente il fattore tempo è vincente in ogni trattativa. Poi vorrei anche precisare che qui non è che sono le agenzie che abbassano il prezzo, le agenzie che intermediano cercano di far portare avanti una trattativa nel migliore dei modi, di farla concludere con successo, e molto spesso devono lavorare non poco anche per convincere i venditori che forse è il caso di cominciare a ridimensionare le richieste. Sì, indubbiamente il fattore tempo è importante, soprattutto perché in questo momento la domanda si è fatta la convinzione che probabilmente il peggio debba ancora venire dal punto di vista dei prezzi, arriverà tra la seconda parte del 2009 e l'inizio del 2010. Se però mi consente una cosa sul discorso dell'abbassamento dei prezzi dei 30-50 mila euro, sì, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, questo non credo sia un buon segnale per il mercato e contribuisce a creare disorientamento. Io credo che sia necessario fare un prezzo tutto sommato equo all'apertura della trattativa e poi concedere uno sconto che può essere fisiologico, ma un ribasso su un prezzo di 200-250 mila euro nell'ordine di 50 mila euro credo che sia un pessimo lavoro fatto dalla gente e un contributo negativo che si dà al mercato. Io su questo devo dirle che mi trovo anche un po' d'accordo, forse poi hanno anche ragione tutti quegli ascoltatori, per quanto noi ovviamente vogliamo difendere un po' tutte le categorie professionali anche lì, però ripeto, l'agenzia si fa anche portavoce di una richiesta che un venditore fa, magari in un prima istanza la soddisfa, cerca di accontentarla, poi naturalmente quando vede che la casa rimane in pancia in agenzia per 6, 8, 10 mesi, un anno, è chiaro che lì, però giustamente dice Dondi, se tutte le settimane, poi bisognerebbe sentire anche Pippo, insomma, qual è veramente la dinamica delle proposte che gli fanno. Comunque, Laura dalla provincia di Treviso, benvenuta anche a lei. Grazie. Niente, volevo soltanto aggiungere questo a tutto quello che avete detto, sì, che io come privata cerco di vendere al prezzo perlomeno che ho speso io 3 anni fa. Sì. E non ci riesco, penso che aspetterò perlomeno un altro 7, 8, 9, 10 mesi, per fortuna non ho fretta, però ci sono i costruttori che hanno costruito appartamenti a centinaia anche nella zona, che loro si possono permettere di diminuire di quei 20-30%. Quindi dice, insomma, mi stanno facendo una concorrenza anche sleale, perché sì, io non me lo posso permettere. Loro se lo possono permettere, però il privato che vende l'appartamento non si può permettere di toglierci il 20-30% su quello che ha speso, non è su un guadagno. Laura, sì, infatti, no, una bella considerazione anche la sua. Peraltro sui prezzi che stanno praticando anche i costruttori, sugli sconti che stanno praticando i costruttori, interviene anche il rapporto Nomis, ma Dondi non so se ci vuole dire qualcosa in più rispetto a questa analisi che ha fatto anche Laura. Il tema è che Laura ovviamente anche volesse aspettare, io non credo che potrà risolvere la sua situazione in 7, 8, 10 mesi, forse dovrebbe a questo punto aspettare una ripresa del mercato che voi individuate già a partire però dalla seconda metà del prossimo anno. Sì, probabilmente dal 2010 la condizione dovrebbe lentamente migliorare, chiaro che è tutto da monitorare costantemente, perché la ripresa secondo me deve essere posta in relazione alla dinamica dei prezzi. Senza uno sgonfiamento di almeno un altro 10-15% dei prezzi è difficile parlare di ripresa. Riguardo alle prospettive del nuovo, è evidente che c'è un'offerta notevole, in alcuni casi anche un eccesso di offerta, sui margini che i costruttori che hanno incominciato il processo edilizio tra il 2004 e il 2005 sui margini che questi costruttori hanno, sono un pochino più perplesso, perché comunque hanno iniziato l'investimento in una fase di valori già piuttosto elevati e in cui le aree costavano molto, per cui non vedo questa grande capacità di poter scendere di poter scendere più di tanto E Laura, insomma, che addirittura non pretende di speculare sul suo investimento immobiliare, ma io dico almeno la vorrei rivendere a quanto l'ho pagata. E invece ci sono anche dei casi di chi deve scendere al di sotto dell'investimento iniziale. Mario Breglia, vuole commentare qualcosa rispetto anche a questo? Beh sì, è la regola del mercato immobiliare, nel senso che l'investimento in una casa non è fatto per speculare, nel senso che la casa, investire in una casa deve servire a preservare l'investimento rispetto all'inflazione nel tempo. Noi abbiamo visto, e la regola si ripete praticamente sempre, che facendo un acquisto nel momento zero, dopo 10 anni il valore della casa è immutato rispetto all'inflazione. A prescindere da quale sia, come dire, la situazione di mercato nel momento zero. Esatto. Diciamo 10 anni è il tempo medio per cui una qualsiasi abitazione italiana può essere rivenduta senza perderci rispetto all'inflazione e ovviamente rispetto al mercato. Cioè è rimasto immutato il valore. Qualsiasi anno che ci sta tra l'anno 1 e l'anno 10 può portare un rischio, come nel caso della signora, ma 3 anni sono veramente un periodo troppo rischioso per rivendere un'abitazione. Oltretutto c'è anche una penalizzazione fiscale rivendendo prima di 5 anni. Esatto, prima di 5 quindi, anni, sì. Ecco, per cui l'investimento ottimale... Ammettendo che Laura sia costretta a farlo perché sono cambiate le sue condizioni familiari, ecco, quindi non però, sempre sì. Dobbiamo, come dire, vedere... del negativo dell'atteggiamento delle persone a cui a volte proprio magari le condizioni di vita cambiano e si rende necessario un cambiamento anche, come dire, di casa, di abitazione. Quindi ammettendo che sia in queste condizioni, Laura, però dice io quantomeno non vorrei perdere l'investimento che ho fatto. Purtroppo è possibile, ecco, diciamo entro i 10 anni ci si può guadagnare o si può anche perdere, come qualsiasi altro investimento, cioè non esiste l'investimento sicuro, insomma se ci fosse tutti lo farebbero. Esatto, guarda, di sicuro c'è che stasera il Superenalotto vale 100 milioni di euro e lì potremmo accontentare tanti investimenti. Di molti, tante persone che hanno voglia di comprarsi la casa a Miami, magari di comprarsi anche una prima casa, perché molti continuano a stare in affitto e vorrebbero invece sistemarsi, tranquillizzarsi e non lo possono fare. Alessandro da Firenze, lei fa il tecnico, fa le perizie per vedere quanto valgono le case e quindi cercare di capire se chi chiede un mutuo ha ragione di chiedere un determinato importo. Assolutamente. Sì, io tra l'altro sono un geometra professionista, per cui ho la possibilità di vedere il mercato sia dalla parte dei compratori che dalla parte di chi deve erogare il credito e sicuramente gli ultimi 2 anni hanno segnato molto il passo, però secondo me il problema di persone che sento che hanno un po' strapagato, che non riescono a recuperare l'investimento in pieno, secondo me è dovuto anche a una mancanza di fondo di cultura nell'acquisto della casa, nel senso che io trovo che troppa gente faccia degli investimenti corposi senza magari affidarsi a un consulente, un tecnico qualificato, comunque qualcuno che li possa indirizzare, perché io faccio sempre l'esempio di quando si compra una macchina usata da 10.000 euro e la si fa vedere a 2 meccanici, il parente, lo zio che se ne intende, mentre invece uno a volte magari compra una casa da 300-400.000 euro semplicemente perché gli piace, senza andare a fondo magari di... Anche se poi Alessandro, no mi scusi se la interrompo, ve la lascio concludere, c'è anche l'aspetto che diceva Mario Breglia prima sul quale ci siamo soffermati a lungo, c'è anche comunque una componente di prezzo che è data dal nostro desiderio di abitare in una determinata zona, perché... magari quella casa ha una determinata conformazione, costruzione che ci piace molto e su quello siamo disposti appunto a dare un sovrapprezzo. Però lei dice forse qualche volta certi aspetti sono esasperati? Alessandro? Comunque sì, secondo me è comunque fondamentale che ci sia una base tecnica di sicurezza, cioè nel senso valutare che la casa sia in ordine dal punto di vista edilizio, che dal punto di vista impiantistico non ci siano problemi, e tutta una serie di cose, perché è vero che deve piacere, deve rispondere a determinate esigenze, ma se non c'è alla base una sicurezza tecnica che l'immobile sia a posto al 100%, io credo che sia anche nell'ottica di un investimento oculato il fatto che ci siano questi presupposti. Vedo che troppo spesso su 10 compratori ce ne sono 8 che fanno l'investimento d'impulso, diciamo, senza che ci siano delle basi tecniche. È un acquisto, la ringrazio molto, vorrei lasciare spazio ad altri ascoltatori, comunque abbiamo colto perfettamente il senso delle sue osservazioni. È comunque un investimento che dal punto di vista emotivo ci ribalta l'esistenza. Io mi ricordo benissimo quando è successo a me e devo dire che ne sono venuta fuori proprio dal punto di vista emotivo dopo molti mesi. mesi e non è che mi sia comprata la villa Miami, insomma, proprio un piccolissimo bilocale a Milano. Luca Dondi voleva aggiungere qualcosa rispetto alle osservazioni che ha fatto l'ascoltatore, che comunque un po' abbiamo già fatto anche nel corso della trasmissione. Sono totalmente d'accordo, credo che si ragioni forse troppo di pancia e poco di testa, e credo che il livello di consapevolezza vada cresciuto, ma non solo in chi compra, anche in chi finanzia. Credo che le banche abbiano acriticamente assecondato una fase ascendente del mercato, concedendo finanziamenti eccessivi rispetto al valore degli immobili sottostanti, per cui l'aumento del livello di consapevolezza deve riguardare sicuramente chi va a acquistare, ma anche chi si propone di fare un finanziamento immobiliare. E per concludere in bellezza, direi, sentirei il caso di Mauro da Bologna, che insomma ha fatto un investimento 10 anni fa che lo ha messo a posto quasi quanto il Superenalotto di stasera. Mauro? Sì, buongiorno, scusi la possibilità di intervenire, ringrazio, perché io non sono mai intervenuto in una trasmissione radiofonica. È sempre la prima volta, ci dica tu. Volevo semplicemente... Ho acquistato un immobile a Bologna nella prima periferia a 500 milioni e l'ho rivenduto 8 mesi fa a 500 mila euro, quindi secondo me questo discorso dell'investimento con lo stesso prezzo dopo 10 anni non è esattamente quello. Avevo sentito dire che dalle parole di chi era intervenuto proporzione era questa, secondo me non è così. Ecco. No, però Mario Breghi in realtà faceva un ragionamento su un lasso di tempo forse un po' inferiore, avevamo esaminato il caso. Sul valore, non sul prezzo, sì. Sul valore, 10 anni, la rivalutazione, va tolta l'inflazione e va tolto l'incremento del mercato. Però togliendo anche questi due parametri, Breglia da 500 milioni di 10 anni fa, ed erano 250 mila euro abbondanti, adesso questo nostro ascoltatore ha venduto a 500 mila euro. L'importante è che deve difendere, poi dopo può anche attaccare, l'importante è difesa. 10 anni è il minimo, poi dopo se uno fa bene è meglio per lui. Che sono sicuramente tutti contenti in questa compravendita, se è riuscito ad andare a buon fine. Noi comunque non riusciamo ad analizzare altri aspetti. Dondi, lei che sta in quella zona, cosa pensa di questo affare? Beh, è la media di mercato tra il 97 e il 2007. Esattamente, sono quasi raddoppiati, con l'entrata in vigore dell'euro credo che ci sia stato un effetto innegabile sui valori. Mettiamola così, che l'ascoltatore ha perfettamente centrato il timing. La tempistica da qui ai prossimi 10 anni, non so quanti potranno raccontare esperienze simili, anche se ce ne sono tanti che ne possono raccontare, perché sicuramente sono riusciti a portare, anche se adesso i prezzi stanno scendendo, magari hanno un valore di carico però molto molto contenuto, e riescono a portare a casa un affare altrettanto buono. Grazie a Luca Dondi, Nomisma, Mario Breghi, a Scenari Immobiliari. La casa ci piace sempre molto, ci ritorneremo magari a partire da settembre. Adesso Salvadanaio concluderà il suo ciclo di quest'anno, poi ritorneremo ovviamente a capire da settembre Che cosa succederà. Noi ci risentiamo però intanto domani, vi auguro una buona giornata.